Vendo tutto di Matteo Caccia. Domani al Salone del Libro vendo uno scatolone pieno di libri. È lì chiuso da gennaio. Lo apro solo in diretta perché ho paura che se scoprissi quali libri ci sono dentro, anche solo stasera, non lo venderei più. Quindi vado avanti, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un porta CD. Sono le 16:09, quasi 10 minuti di giovedì 13 maggio 2010 e misteriosamente è arrivato il sole anche a Milano. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e abbiamo un piccolo problema con i puff. Allora, il problema è questo qua. I puff al Salone del Libro, nello stand di Radio 24, al padiglione 2, ci sono, però pare che non siano moltissimi. E visto che abbiamo già ricevuto molte adesioni per la diretta di domani, non dico che dovete stare in piedi, ci sono anche delle panche, però sedersi sulle panche non è come sedersi sul puff. Allora facciamo una cosa, si accettano prenotazioni. 349-238-6666. Mandate un messaggio molto semplice in cui scrivete puff più il vostro nome, ok? Tipo puff Marco, puff Claudia, puff Gilberto. E noi ve li riserviamo, ovviamente. Me scriviamo domani, arrivate alle 16. Anzi, fate così, domani arrivate un attimo prima, eh? Venite verso le 3:30, così facciamo 4 chiacchiere anche. Poi arrivate alle 3:30 domani pomeriggio, vi trovate puff Claudio, puff Gilberto, puff Marco. 349-238-6666 per prenotare i vostri puff. Che ahimè, ho già parlato con Elena Ligios del marketing, non sono in vendita. Magari riusciamo, magari a strapparne uno ce la facciamo. Vediamo domani. Comunque domani, ore 16, se venite un po' prima è meglio, in diretta dal Salone del Libro, anche se già Radio 24 c'è. Tra l'altro dobbiamo anche ammetterlo che Laura Faggin ci ha abbandonato, è già da oggi al Salone del Libro, ma è consapevolmente sostituita e ottimamente sostituita da Giorgio De Luca, che è dall'altra parte. Oggi si parla di un argomento molto serio però. Oggi ognuno di voi, alla veneranda età di 30, 40, 50, 60 anni, quella che avete, si deve mettere la mano sul cuore e cercare di riflettere su quando erano giovani ed erano una promessa di qualche attività particolare, perché è di questo che oggi si parla. 800240024 oppure 349-238-6666. Tutti, più o meno tutti, da bambini, da ragazzini, sono stati una promessa di qualche cosa, di uno sport, di una materia a scuola, di un'attività, anche la più assurda, non si doveva per forza essere una promessa del calcio, ma tutti prima o poi sono stati avvicinati dall'allenatore, dal professore, dalla maestra e si sono sentiti dire: guarda, tu sei molto bravo, eh? Nella vita potresti fare questo di mestiere. E adesso invece siete dei consulenti. 800240024 oppure 349-238-6666. Giorgio De Luca, ad esempio, l'assistente di oggi, il nostro partenopeo di Radio 24, era una promessa del teatro, al punto che poi ha studiato comunicazione e sua madre si rammarica ancora adesso, che gli dice: avrei dovuto farti studiare. Giorgio, l'unica madre che dice che avrei dovuto farti studiare teatro al proprio figlio. Era una promessa nelle recite del liceo, giusto? Perfetto. 800240024, ma se eravate una giovane promessa del tennis del vostro circolo, se a 8 anni sciavate come Tomba, se suonavate il violino come Uto Ughi, se ballavate come Carla Fracci e oggi fate i consulenti, manina sul cuore e altra sul telefono. 800240024 349-238-6666, perché oggi si parla di quelle promesse mancate che eravamo e che non siamo più stati. Arriviamo però al porta CD, perché tutto parte da lì. Per vederlo, radio24.it, per sentirlo, eccoci qui. Il porta CD. Porta CD in legno scuro, dotato di ganci per essere appeso in orizzontale e in verticale. Dimensioni: altezza 15 cm, lunghezza 86 cm, profondità 3,5 cm. Spazio disponibile per 42 CD. Ottimo per chi lo voglia riempire di musica o che abbia uno spazio libero sul muro di casa. Valore commerciale 46 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ciascuno di noi nella vita fa delle promesse. Alcuni le fanno e se ne dimenticano, altri le mantengono, altri ancora non le mantengono e non se ne dimenticano più. Iniziamo da piccoli. Da bambini i grandi ci fanno promettere che a scuola saremo promossi, che in gita faremo i bravi, che non disubbidiremo mai ai genitori, che non fumeremo le sigarette, le canne, che non berremo alcol, che in auto non correremo, che faremo sport, che troveremo una persona da sposare e faremo una famiglia, che saremo persone responsabili e che tutti saranno orgogliosi di noi. Poi ci sono i più fortunati, i talentuosi, quelli che promettono bene. Loro sono il futuro della musica, del calcio, della matematica, della ginnastica artistica. Sono i futuri numeri uno, quelli che diventeranno campioni nazionali, olimpionici, che avranno riconoscimento, che faranno progredire il mondo. Ecco, loro non fanno solo una promessa, loro sono una promessa. Gli allenatori li seguono con attenzione, gli insegnanti non concedono un attimo di tregua e i genitori vedono in loro il successo che loro invece non hanno mai avuto. Poi passano gli anni, cresciamo e cambiano i rapporti, ma non l'abitudine alla promessa. Da grandi firmiamo contratti e mutui perché dare la parola non basta. Promettiamo di mantenere i figli, di essere fedeli sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Facciamo promesse per prendere tempo, per non dire subito di no, per compiacere, per non ferire qualcuno, per fare credere che ci stiamo pensando, che in fondo non è colpa nostra. Poi le promesse che abbiamo fatto raggiungono un livello che non sopportiamo più, che quasi ci sovrasta, che guida le nostre scelte, che ci fa fare delle cose che non avremmo mai fatto. Perché in fondo mantenere la promessa alla fine è più importante del contenuto stesso della promessa. Venire meno equivale a perdere quella parte di sé che gli altri conoscono e che vedono di noi. Perché le nostre promesse dicono chi siamo. La promessa è una profezia che si autoavvera. Ci obbliga a rispondere di quello che facciamo e quello che non facciamo. Perché solo andando fino in fondo, solo mantenendola, otterremo il nostro posto sulla terra. Altrimenti niente, saremo degli incompiuti. Perché in fondo la promessa non la facciamo solo con i nostri genitori, i nostri innamorati o i nostri capi. La promessa è un impegno che prendiamo con il mondo. Mantenerla, oppure no, equivale al successo o al fallimento. Quella di oggi è la storia di una promessa non mantenuta. Cugino più piccolo di me, si chiama Jacopo. A dire la verità non è nemmeno un cugino vero e proprio, cioè è il figlio di un secondo cugino di mio padre. Però è di fatto il parente più giovane che abbia mai avuto. Quindi tra me e lui c'è sempre stato un rapporto come di uno più grande con uno più piccolo. Lui guardava tutto quello che facevo io e lo imitava. Giocavamo a pallone e lo battevo sempre perché ero più grande, quindi ero più forte. Andavamo in giro per il paese e lui mi stava sempre attaccato. E quando qualcuno gli chiedeva chi era, lui rispondeva: sono Jacopo, il cugino di Matteo. Avevo 18 anni quando nel 1993 fui folgorato dal primo disco dei Radiohead. Si chiamava Pablo Honey. Per un ragazzo di un paese della provincia era una specie di rivoluzione. Lo comprai dopo che me ne aveva parlato il mio amico Federico. Era tornato da Londra con questo CD. Iniziai ad ascoltarlo compulsivamente, come se non potessi farne a meno. Jacopo aveva 12 anni e tutti i sabati veniva a casa mia per giocare a pallone. Ma io avevo scoperto i Radiohead e quindi non volevo fare altro che starmene in casa ad ascoltarli. Per un po' lui insistette, cercando di convincermi a scendere in cortile, poi si arrese e iniziò anche lui ad ascoltare la musica. Quando nel 1997 uscì l'album OK Computer, io avevo 22 anni, lui 16. Per il suo compleanno gli regalai un porta CD da appendere in camera sua con dentro i tre dischi che fino ad allora i Radiohead avevano pubblicato: Pablo Honey, The Bands e OK Computer. C'erano ancora molti spazi vuoti da riempire e io gli promisi che gli avrei regalato tutti i dischi futuri del gruppo, a patto che lui non ci mettesse nessun altro CD di nessun altro gruppo. Jacopo fece una smorfia e rilanciò la promessa. Ok, mi disse, facciamo così. Io lo faccio, tu però mi prometti che appena vengono in Italia mi porti a vedere un loro concerto. Io dissi di sì, ovviamente. E poi gli anni sono passati. Io sono venuto a Milano prima a studiare e poi a viverci. Jacopo lo vedevo quando tornava a casa, oppure per le feste comandate. Ad ogni Natale gli facevo un regalo, e se quell'anno era uscito un disco dei Radiohead, ovviamente sapevo cosa regalargli. Lui ogni volta mi ringraziava e quando andavo a casa sua mi mostrava il porta CD appeso alla parete che si riempiva, piano piano. Nel giugno del 2008 i Radiohead hanno suonato all'Arena Civica di Milano. Inizialmente il concerto doveva essere uno, poi c'era talmente tanto pubblico che ne hanno fatti due. La prima sera ha diluviato, la seconda no. io avevo il biglietto per la seconda. Quella sera il cielo è rimasto chiaro fino a tardi. Quando Tom York e gli altri sono usciti sul palco, il pubblico li ha accolti con un boato di gioia. Loro hanno suonato per oltre 2 ore, facendo le canzoni con arrangiamenti sempre diversi e in una sequenza inaspettata. Mai un ammiccamento, mai niente per scontato. Insomma, pieno stile Radiohead. Noi andiamo per la nostra strada, voi stateci dietro. Quella sera, alla fine, mentre uscivo in mezzo alla folla, ho incontrato mio cugino Jacopo. Abbiamo riso, ci siamo abbracciati, abbiamo commentato quanto fosse stato straordinario quello che avevamo appena sentito. Solo quando ci siamo salutati, a me è venuta in mente la promessa. 6 mesi dopo, il giorno di Natale, lui mi regalò questo porta-CD, quello che vendo oggi. Identico a quello che gli avevo regalato io, ma vuoto. Ridendo mi disse che così la prossima volta mi sarei ricordato della mia promessa. Quel giorno ci scherzammo sopra e la giornata fu serena. Io l'ho tenuto in casa per 2 anni, questo porta-CD. E ogni volta che lo guardavo mi veniva in mente Jacopo e quell'impegno non mantenuto. E non so come, ma malinconicamente sentivo che in qualche modo questo oggetto parlava di me. Eppure, nonostante Jacopo, i Radiohead e le promesse non mantenute, questo CD è in vendita. Il suo valore è di 46 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se eravate una grande promessa e non l'avete mantenuta, 80-0024-0024. Look at cameras before you come but so le 16:22, solo il Radiohead oggi avendo tutto. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, 349-238-6666. Allora, ottobre 1998, campione di kickboxing categoria 64 kg. Novembre 1999, autista di camion che è ancora il mio lavoro. Zule di Vicenza. 80024-0024, se eravate una grande promessa e non l'avete mantenuta. E c'è qualcuno, credo, tipo Giampaolo da Palermo. Pronto Giampaolo? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, tutto bene. Senti, tu che cosa facevi ed eri bravissimo da piccolo? Allora, innanzitutto io volevo dire che questa è una trasmissione, un tema di oggi. Diciamo che è un pochettino di quei temi che ti fanno venire il magone, sai, di quelli che ti fanno venire... Guarda Giampaolo, però ti prego non metterti a piangere in diretta. No. Ok, perfetto, allora vai liscio. Ti viene un po' il magone, sì. Perché? No, perché chiaramente stiamo parlando di promesse, no? Noi eravamo delle promesse da piccoli. Eravamo quella persona che tutti vedevano come, sai, quello che avrebbe avuto un gran futuro, quello okay. Che era dotato, quello che era più intelligente degli altri, che riusciva meglio degli altri a fare una certa cosa, poi magari col passare degli anni tutte le aspettative... Quelle cose, sì, sempre... o semplicemente non era così, no? Cioè, semplicemente no, che da no, piccoli no. Tutti intorno dicono, ammazza quanto sei bravo, però bravi così ce ne sono in giro tanti, no? Sì. Tu che cosa facevi, Giampaolo? Io, diciamo che a partire dai 14-13 anni ho cominciato a studiare chitarra jazz. E mi piaceva tantissimo, la musica era la mia vita, facevo diciamo che nell'ambiente della mia città ho cominciato un po' a girare, a suonare, a conoscere gente. Tutti mi dicevano che avrei fatto qualcosa. Senti, poi alla fine. E quanto tempo è passato? Quanti anni hai adesso? Adesso ne ho 25. Ah vabbè, insomma era... No, ne è passato poco, lo so, però... E cosa fai nella vita, Giampaolo? Attualmente studio. Ah vabbè, ma la suoni ancora la chitarra? Sì, la suono ancora, ma non la suono più quella... diciamo con l'attività di prima, non la studio più, non la... Ok, ho capito. C'è un po' di malinconia in questa cosa, però magari tra 10 anni ti rimetti a suonarla e sei contento lo stesso, anche se la suoni il venerdì sera, no? Probabilmente sì. Perfetto. Il punto è che quello che... No, allora, il motivo... No, guarda Giampaolo, io starei ore a sentirti, però purtroppo ci sono altre 4 persone che mi aspettano e ho 3 minuti. Per cui facciamo che mi chiami, magari ci sentiamo... Domani no, che siamo al Salone del Libro. Vieni al Salone del Libro anche tu da Palermo, Giampaolo, e poi ci sentiamo con calma un'altra volta. Vabbè. Un abbraccio, ciao Giampaolo. Ciao. Pronto, intanto arrivano Puff Marco, Puff Giovanni, Puff Maddalena e Chiara. Andiamo però a Roma. Marco, pronto Marco? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Dunque, io sono un caso un po' più difficile dell'altro. Aia. A 18 anni ho vinto un premio letterario con un romanzo. Sì. Il presidente della commissione, quando ha visto che ero io, ha detto, ecco il figlio del premiato. Ha detto, no, veramente sono io. Allora si è alzato in piedi e ha detto, signori, guardatelo bene che avete il prossimo grande autore italiano davanti. E poi sono venuto a fare consulente. Che consulente di cosa, Marco? Di cose complicate, per fortuna, perché costruisco analisi sul potenziale, prevedo il futuro in pratica. Io vi adoro, voi consulenti. Marco, mi dici invece il titolo del tuo romanzo qual era? La strada. La strada, mazza. Sì, era una storia di un ragazzo che viveva in una montagna e a un certo punto lascia tutto, bravo, esattamente come la tua trasmissione, e parte all'esplorazione del mondo, ma invece di incontrare persone, incontra personaggi, incontra cose. E poi Marco, fa delle esperienze strane. E sì. Poi è arrivato Cormac McCarthy e t'ha fregato. Ed è finita lì. Marco, buona giornata, grazie mille. Ciao, alla prossima. Stiamo a Milano e andiamo da Lia. Pronto? Ciao Matteo. Ciao Lia. Senti, purtroppo non ho tanto tempo, però so che tu eri una promessa in che cosa? Allora, io ero una grande promessa da un punto di vista scolastico, perché tutta la mia carriera scolastica, dalla prima elementare all'ultimo anno di università, è stata brillantissima, con lodi da tutte le parti, Mi sono laureata brillantemente, eccetera, eccetera, avrei potuto continuare a lavorare, l'ho fatto per qualche anno, però poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e ho preferito fare la mamma. Lia, dimmi che non hai malinconia in questo ricordo, non ce n'è. Guarda, diciamo che sono su un'altalena, la malinconia vai e viene. Lia, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Andiamo a Prato, li prendiamo tutti e due al volo. Prato, Alberto. Ciao, buonasera. Ciao Alberto, tu eri come il nostro Giorgio, giusto? Eri una promessa del teatro. Io ero più come Giorgio Fanariello. Ero un comico e feci da ragazzino alla scuola, ovviamente, un Gianni Schicchi, che mi sembra sia di Puccini, se non vado errato, ma non me lo ricordo. Non studiai niente, non sapevo la parte, improvvisai la prima volta, improvvisai la seconda, e il professore alla fine delle scuole medie disse ai miei genitori: questo ragazzo deve andare da Gassman. Addirittura, alla bottega di Gassman. Senti, chiudiamo, che cosa fai adesso, Alberto, nella vita? Sono sempre un po' un attore, faccio l'agente di commercio. E qui vado a recitare. E qui chiudo, grazie Alberto, ciao. L'ultima al volo, giuro che sono velocissimo, Bonini. Gianni da Livorno. Eccomi qua. Gianni, tu hai capito, siamo già in ritardo di un minuto, fai te. Ricordissimo, io ero un pianista eccezionale, suonavo con due mani e un piede, da piccolo, perché ero bravissimo. Sembrava che avessi tre mani, e invece niente, non ho fatto altro che usare le mani in un altro modo, perché sono un chirurgo ortopedico. Beh, direi che comunque ci difendiamo, Gianni. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao, alla prossima. L'appuntamento è per tutti e a tutti per domani al Salone del Libro alle ore 16:30 in diretta con Vendo Tutto. Grazie a Giorgio De Luca, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Andate a prendere il mio CD, il mio porta CD, che è sul sito. Voi invece, se avete fatto una promessa, mantenetela, che una promessa alla fine è sempre una promessa. Love, love, love, wherever you go.